della Chiesa moderna e contemporanea, il cui tema, come indicato nel programma, riguarda i dati archivistici vaticani sulla prima fase del Kulturkampf 1871-1878. Padre Martina è, come noto, uno dei maggiori conoscitori degli archivi vaticani, dove da molti anni scava, soprattutto in relazione alla sua monumentale opera su Pio IX, di cui è uscito quest'anno, in primavera, se non sbaglio, verso febbraio-marzo, il terzo volume che la completa, pubblicato delle edizioni dell'Università Gregoriana, e è peraltro conoscitore della storia d'Italia, oltre che della storia della Chiesa, dell'Ottocento e del Novecento, molto affermato, noto in campo internazionale per la varietà della sua produzione. Ma soprattutto quest'oggi abbiamo intenzione di sfruttarlo, diciamo così, di utilizzare le sue competenze in relazione proprio alla indicazione e alle conoscenze dei fondi archivistici, delle basi documentarie che forse ancora attendono di essere pienamente utilizzate in relazione al tema che è oggetto del nostro seminario. Dopo l'intervento di Padre Martina dovrebbe intervenire il professor Weber. Ecco, e quindi questa mattina abbiamo due interventi, quindi una certa densità di lavoro. Raccomanderei a tutti per questo motivo di cercare di rispettare i tempi, perché prevediamo di non finire poi troppo tardi, in modo da poter poi riprendere regolarmente nel pomeriggio. Allora do senz'altro la parola al professor Giacomo Martini. Dovrei essere breve, spero di riuscirci. Vorrei ringraziare prima di tutto di tutta l'accoglienza che ho avuto un po' da tutti, in modo particolare dal professor Vandrus, dal Cragnello, tutti i vecchi amici, e anche chiedere scusa se sono stato ieri un po' temperamento folle, ma forse insomma ha dato un po' di vivacità alla discussione. Solo vorrei dire che io non sono nella linea del Margotti, dell'Unità Cattolica, ecco, piuttosto mi trovo con Carlo Levi, con Cristo si è formato ad Eboli, con Corrado Alvaro. Quello che mi dispiace è che non siamo riusciti, la classe dirigente italiana del secolo scorso non è riuscita a dare quel senso dello Stato che i programmi così idealisticamente proponevano. Ma lasciamo stare tutto questo. La mia relazione è un po' una sintesi, in parte, e in parte lo sviluppo di alcuni punti del settimo capitolo di questo volume, che costituisce il terzo volume della mia opera su Pio IX. E non tocca a me giudicare questi tre volumi, soltanto direi che sono frutto di 27 anni di lavoro all'Archivio Vaticano, e che ho cercato, e credo in questo di esserci riuscito, a tenermi lontano da ogni impostazione agiografica, apologetica, per carità. E poi, come detto anche nella prefazione di questo terzo volume, ho cercato in particolare in quest'ultimo di essere un po' conciso. Ogni capitolo poteva costituire un libro, evidentemente. Ho dovuto spaziare un po' per tutta la storia europea del secolo scorso, ne potevo farne tre o quattro di questi libri se avessi voluto sviluppare un po' questo. E detto questo, vorrei dividere un pochettino quello che sto per esporre in due parti: uno sguardo agli archivi vaticani e poi alcuni cenni su alcuni documenti. Vedete, ho qui le fotocopie di documenti più importanti, e non credo di poterli leggere, evidentemente, ma almeno coglierne un po' significato e il contenuto essenziale. Gli archivi, si parla di archivio Vaticano, ma in realtà bisognerebbe parlare di archivi vaticani. Ci sono gli archivi delle varie congregazioni romane, una parte soltanto è stata versata all'archivio Vaticano. Abbiamo l'archivio del Santo Ufficio, che per ora è inaccessibile, e sì, forse si sta studiando il modo per facilitarne l'accesso a qualche studioso più preparato, ma tutto è di là da venire, è de iure condendo, diciamo così. Personalmente io sono favorevole all'apertura più ampia che sia possibile di tutti gli archivi, e magari anche prima di tutto anche quello dell'ex congregazione del Santo Ufficio, ora congregazione della fede, ma tutto questo non dipende certamente da me. Cioè, ci sono gli archivi, c'è l'archivio di propaganda importantissimo, che costituisce un ente a sé, amministrativamente e politicamente distinto. Altri archivi sono stati versati all'archivio Vaticano, quello della Congregazione del Concilio, importante perché contiene le relazioni ad limina, cioè le relazioni che ogni vescovo teoricamente deve consegnare alla Santa Sede sullo stato della sua diocesi. Sul valore di queste relazioni, naturalmente, la discussione è ancora aperta. E in particolare poi nel Vaticano stesso ci sono due archivi che tuttora sono distinti amministrativamente e politicamente, se vogliamo, cioè l'archivio degli affari ecclesiastici straordinari e l'archivio che va sotto il nome di Archivio Vaticano. E l'archivio della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, che in genere si cita con AA E SS, con le sigle di queste tre parole, dunque è più recente dell'Archivio Vaticano, perché è nato con la nascita della Congregazione, evidentemente, che è sorta alla fine del periodo napoleonico per discutere un po' gli affari relativi alla Francia, e poi si è mantenuto. E in genere esso si abbraccia le questioni relative ai rapporti tra Chiesa e Stato, quindi è di un'importanza molto larga, quasi fondamentale, e ha un ottimo indice fatto in questi ultimi 20 anni da 2 o 3 suore, si erano specializzate, preparate con un buon corso d'archivistica, e hanno cambiato un po' la segnatura, ma è eccellente la disposizione e il catalogo dell'archivio. Soltanto che, mentre l'archivio Vaticano è aperto a tutti gli studiosi fino al 1922, cioè sino all'avvento di Pio X, l'archivio degli affari ecclesiastici straordinari fino a qualche anno fa era ancora riservato. Adesso si è cominciato ad aprirlo, ma ci sono tanti problemi tecnici di natura proprio materiale, banale se vogliamo, perché l'archivio sta al quinto piano e c'è una sala di lettura a pian terreno, e ci sono ascensori e scalette eccetera, e non c'è personale, c'è un povero monsignore che deve fare da usciere e portare tutti questi pacchi giù, e non è possibile andare avanti in questo modo. E allora la cosa più semplice sarebbe unire i due archivi, e non ci sono difficoltà insormontabili, ma ci sono difficoltà psicologiche, perché sono due enti diversi, e allora naturalmente ogni ente è geloso di se stesso, geloso dell'altro, e conserva, vuole conservare quello che ha e non vuole darlo all'altro. Quindi l'archivio Vaticano, l'archivio degli affari ecclesiastici straordinari non vuole cedere all'archivio Vaticano i suoi documenti, e l'archivio Vaticano in fondo è contento di questo, perché dice: ci abbiamo già tanto, cioè adesso se ci piomba addosso anche questo il lavoro aumenta. In fondo si tratta di questioni psicologiche e anche poi di questioni economiche, perché ogni spostamento, ogni versamento e soprattutto l'unione di due enti esige poi nell'ente che riceve un aumento di personale, e quindi spese maggiori. E non è, anche qui ritorno al discorso di ieri sulle spese, sì, questione di scelte, di preferenze. E questo per capire un po' la situazione. Speriamo che una volta, io credo che una volta o l'altra si arriverà ad unire i due archivi, perché così in questo momento non si può andare avanti, per motivi pratici essenzialmente. Ma l'archivio degli affari straordinari, per quanto ci riguarda, è una certamente importante, soprattutto perché raccoglie delle posiziones. E che cosa sono le posiziones? Sono delle sintesi stampate, qualche volta anche di 200 pagine, che raccolgono prima di tutto un quadro generale della situazione e poi appendici amplissime, a volte più ampie della sintesi, con tutti i documenti più importanti. Quindi senza cercarli qua e là, quando ci imbattiamo in una posizione, o posizio come si dice, stiamo a posto, lì c'è tutto. Si potrà completare qua e là, ma abbiamo la sostanza. Queste posizioni sono più rare nell'archivio Vaticano Comune e invece sono frequenti nell'altro archivio degli affari ecclesiastici straordinari. Per il Kulturkampf sono indicate negli indici 13 posizioni, anche nelle istruzioni ai nunzi Bianchi e poi Luisi Masella. Dice, beh, il nunzio si legge un po' tutte queste le posizioni, le 13 posizioni stampate. Io non sono riuscito a trovarle tutte, qualcuna sfugge, ma ce ne sono un buon numero, si trovano subito. E abbiamo quello che è il punto di vista della Santa Sede. Chi è che ha steso queste posizioni? Consultori per lo più rimasti anonimi. E qui, anche qui il discorso si allargherebbe sull'importanza dei consultori, bisognerebbe conoscerli, e sul loro spirito di abnegazione, perché lavorano moltissimo, sono pagati poco e rimangono anonimi. Questo più volte, ho trovato anche per altre questioni, addirittura due volumi stampati che avrebbero meritato una cattedra universitaria all'autore, e l'autore non ha messo nemmeno il nome, non si saprà mai chi l'ha fatto quel lavoro. Quante copie ce ne sono? Sono copie riservate che sono state diffuse a poche persone e sono rimaste anonime, ma hanno formato magari l'ossatura di alcune decisioni per gli affari tedeschi e più in genere per tutto il pontificato di Pio IX sino al 1873. Nei rapporti tra Chiesa e Stato, l'esperto vaticano era il gesuita Tarquini, professore di diritto canonico all'Università Gregoriana, un tipico esponente dell'intransigenza, della linea più dura, un notevole canonista, ma privo completamente di ogni sensibilità storica, sempre completamente privo di ogni contatto con la realtà. Molte note diplomatiche firmate dal Cardinale Antonelli sono senz'altro da attribuirsi al padre Tarquini, che poi per questo è stato promosso cardinale, ma è morto due mesi dopo. E dopo la morte del Tarquini non so chi siano gli altri esperti vaticani, perché Raisa, che era già morto, poi in parte Franzelin, che poi viene nominato cardinale, però dopo, e poi Franzelin non aveva quella preparazione canonistica che aveva il Tarquini. E quindi non so a chi debbano attribuirsi queste posiziones. Comunque Tarquini ha pubblicato un manuale di diritto ecclesiastico sui rapporti tra Chiesa e Stato eccetera, che ha avuto una trentina di edizioni, ma in termini tecnici è fermo alla tesi e ignora completamente l'ipotesi. La rivoluzione francese non è esistita, punto e basta. Detto questo. E per l'archivio invece, che scherzando si può chiamare quello di sotto, l'archivio Vaticano, ci sono parecchi fondi e i fondi più importanti sono l'archivio di Pio IX, per quanto ci riguarda, che abbraccia le lettere ufficiali di Pio IX con i sovrani o con altre persone di una certa importanza. E poi le rubriche della Segreteria di Stato, cioè questo fondo della Segreteria di Stato è diviso per argomenti e ogni argomento ha un numero da 1 a 250 grosso modo. È stato cambiato nel 31, poi nel 46, dal 46 è rimasto intatto. E le rubriche più importanti per noi sono quelle dell'Annunziatura di Monaco. E poi ci sono le Epistula Principes, il cui titolo più importante e completo sarebbe Epistula Principes Episcopos Aliosque, che raccolgono un po' la corrispondenza di Pio IX con i vescovi o con i cardinali. Per metà si tratta di cose inutili, auguri natalizi, e per l'altra metà invece di argomenti molto importanti. Bisogna dire però che per gli ultimi anni del pontificato di Pio IX l'Archivio Vaticano rivela una certa trascuratezza, non addebitabile agli attuali funzionari, ma ai funzionari del 1870. Gli indici, per esempio, si fermano al 70 alcuni, per alcune cose interessantissime, gli ultimi 8 anni, bianche, pagine in bianco. Che è successo? E altre cose non si sa dove siano andate a finire. Si sa che che esistono da altre fonti, e io non sono stato capace di trovarlo, il prefetto non ha avuto tempo sufficiente per aiutarmi, quindi tante cose non si sa dove siano andate a finire. E probabilmente tutto questo è dovuto anche al prefetto di allora. Fino al 1870 per lunghi anni era stato prefetto il Tainer, e poi Agostino Tainer, per i motivi che voi in parte conoscete e che ora non è il caso di ricordare, venne allontanato da questo ufficio e venne sostituito da un certo monsignor Bernardini Rosi, il quale andava in ufficio alle 10 in carrozza e tornava a casa alle 13, e non credo che a casa svolgesse il lavoro di archivista. Quindi 3 ore al giorno e poi il resto del tempo non so che cosa facesse, con i risultati sono quelli che noi vediamo. Però ciò nonostante l'Archivio Vaticano rimane sempre una fonte quasi inesauribile, non si può mai dire di aver visto tutto. E quello che più interessa è che esso non rispecchia soltanto il punto di vista della Santa Sede, perché allora sarebbe una fonte unilaterale, ma anche il punto di vista dell'episcopato tedesco. I vescovi tedeschi scrivono a Pio IX, non soltanto il punto di vista della Santa Sede, ma il punto di vista dell'episcopato locale, che è esposto con estrema chiarezza. E anche in fondo alle risposte della Santa Sede si tengono conto di questo fatto, e le relazioni dei nunzi espongono anche l'opinione pubblica della Germania. Possono essere fatte bene, fatte in modo mediocre, ma non espongono unicamente il punto di vista della Santa Sede. Qui il problema teorico e pratico è molto vasto, perché che valore hanno le informazioni dei nunzi, che valore hanno le informazioni degli ambasciatori, fino a che punto l'ambasciatore o il nunzio è obiettivo, fino a che punto tende a presentare le cose dal punto di vista favorevole al suo governo o all'ente da cui dipende. Ma in sostanza le relazioni dei nunzi sono abbastanza obiettive, in modo particolare mi sembra per il Kulturkampf. Poi oltretutto, per quanto riguarda la complementarietà degli affari ecclesiastici straordinari con l'archivio della Segreteria di Stato, bisogna dire che è impossibile dividere gli argomenti in due parti: affari straordinari, che poi un nome che non regge più, relazioni tra Chiesa e Stato, i rapporti dei nunzi, sono due cose complementari, e tante volte si vede che certe cose stanno nell'archivio, diciamo in basso nell'archivio comune, quello che ha detto l'Archivio Vaticano, e lo stesso argomento però è completato da sopra. O magari ci troviamo una lettera di Pio IX conservata all'annunzio di Pietro, supponiamo a Lisbona, e poi si domanda, ma insomma, perché il Pianone ha scritto tutta questa lettera? E la risposta la troviamo agli affari ecclesiastici straordinari, magari per caso, cioè, una volta o l'altra bisognerà arrivare alla fusione dei due archivi. E è chiaro che adesso non pretendo di parlarvi di tutto il materiale che ho trovato e nemmeno poi potrò riprodurlo nella relazione. Riprodurre queste 15 posiziones di 200 pagine ciascuno è un grosso modo, è un lavoro che supera gli atti di un congresso, potrebbe allora diventare oggetto di uno o due volumi. In parte poi i punti fondamentali li ho esposti in queste pagine, adesso non voglio farmi la reclame, lo dico unicamente per sincerità e per chiarezza. Avrei potuto benissimo leggervi queste pagine, dato anche che è uscito il 30 aprile e le poste sono estremamente lenti, le riviste a cui l'ho mandato ancora non l'hanno ricevuto, nella libreria non si trova, per cui praticamente questo libro è ancora sconosciuto. Poi alla fine dell'anno comincerà a essere conosciuto più o meno, ma per ora queste pagine si possono considerare sconosciute. Ma non voglio leggere queste pagine, voglio invece fermarmi su alcuni di questi documenti. Qui ne ho il testo completo, ma naturalmente vi indico soltanto l'essenziale. E la prima cosa che questo naturalmente ha dei, questo metodo ha naturalmente dei limiti. Se volessi essere organico e darvi una visione del Kulturkampf, allora potrei semplicemente leggervi queste pagine, per me sarebbe più semplice, ma penso che non sarebbe così utile come piuttosto indicarvi i punti fondamentali dei documenti che ho trovato e che ho cercato di studiare. E allora i primi documenti sono le istruzioni ai nunzi a Monaco, al nunzio Bianchi e al nunzio al suo successore, cioè al nunzio Luigi Masella, e vedete che sono istruzioni piuttosto ampiette. Qui dunque, qui sono manoscritte, sono istruzioni manoscritte, quindi per curiosità posso dire che questo è il frontespizio, affari ecclesiastici straordinari, Germania, anno 1874, posizioni 1052-1054, fascicolo 569. Per fortuna le fotocopie sono molto chiare e sono un'ottantina di pagine, sono scritte, poi seguono le istruzioni al successore del Bianchi, al nunzio Mella, che sono più brevi perché in fondo ripetono largamente quello che era stato già detto al nunzio Bianchi. Quali sono i punti fondamentali di queste istruzioni ai due nunzi? È presupposto anche necessario. Chi ha scritto queste istruzioni? In genere sono evidentemente firmate dal Cardinal Segretario di Stato, questo è evidente, ma l'Antonelli non faceva mai, lui metteva la firma, dava con la sua calligrafia pessima due paginette con gli schemi e poi gli altri addetti ai lavori stendevano queste istruzioni, che largamente venivano accettate con qualche corruzione, sfumatura, eccetera. E che valore hanno? Ci informano un po' dal punto di vista della Santa Sede. Sono state pubblicate in qualche caso, per esempio le istruzioni per i nunzi in Belgio, in altri casi non sono conosciute ancora. Queste ho tutto il fondamento di ritenere che siano assolutamente inedite, anche perché l'accesso agli affari ecclesiastici straordinari per ora è piuttosto limitato. E senza scorrerle completamente, data la loro ampiezza, quali sono le idee fondamentali che emergono in queste istruzioni? La lotta durissima che si svolge contro la Chiesa, ve ne leggo però alcune pagine, alcuni periodi più che pagine. signor Bianchi si accorgerà facilmente che le leggi e i rescritti e ordinanze del governo imperiale non mirano ad altro che al radicale svolgimento della gerarchia ecclesiastica e della costituzione stessa della Chiesa di Dio. Così appare chiaro anche dalla loro pratica studiata ed inesorabile applicazione, motivo per cui il combattimento al quale la Chiesa viene chiamata riesce per essa assai difficile e scabroso, avendo i governi tutti i mezzi materiali per perseguitarla in un modo di cui la storia offre pochi esempi. Ciò non toglie che la Santa Sede, non meno che i Vescovi, abbiano fatto quanto era in loro. Queste istruzioni sono dunque della fine del pontificato di Pio IX, cioè del 76, mi pare. Adesso qui mi trovo la data e andiamo avanti, se no. Del 74, dicembre 1874. È un po' un bilancio che la Santa Sede fa della situazione. Quindi lotta durissima contro la Chiesa. Più avanti esso dice che raramente la Chiesa è stata perseguitata in una maniera così dura. In secondo luogo, le istruzioni mettono in risalto che il pretesto iniziale di questa lotta è dovuto anche al sorgere, alla nascita dei vecchi cattolici, che il governo ha appoggiato e che la Chiesa ha condannato e colpito, ma questo appoggio che i vecchi cattolici avevano ricevuto dal governo ha fatto sì che la lotta contro i vecchi cattolici è stata colta dal governo come un momento di attacco al governo stesso. Quindi è stato un ottimo pretesto per il governo per considerare la Chiesa come nemica dello Stato, e quindi la lotta contro la Chiesa era vista dalla Prussia in modo speciale come una difesa necessaria dello Stato contro i suoi avversari. Le istruzioni ricordano la forte unità dell'episcopato prussiano, ma anche le divisioni che erano emerse in quegli anni, ripeto, siamo nel 1874, tra l'episcopato bavarese, e questo è confermato da vari episodi sui quali ci fermeremo rapidamente. Ma questa resistenza dell'episcopato tedesco, specialmente prussiano, è spontanea, non è il frutto di direttive o di pressioni emanate da Roma. Eccolo qui. In questa circostanza l'unione dell'episcopato e la sua energia nel difendere i diritti della Chiesa si mostravano al di sopra di ogni eccezione. Questa attitudine dei pastori della Chiesa è tanto più ammirabile e degna d'encomio in quanto che essa fu spontanea, non avendo la Santa Sede o il rappresentante di essa avuto bisogno di interloquire in altro modo che per approvare la condotta di Monsignor Vescovo di Varmia. Non c'è bisogno che spieghi il Vescovo di Varmia, Prussia orientale, grosso modo, e dei suoi colleghi per la loro attività e vigilanza veramente pastorale. Allora, quindi è l'episcopato che ha resistito in modo compatto a Bismarck, e la Santa Sede è intervenuta per approvare e per sostenere l'episcopato. E nunzio continui in questa trasmettazione di sostegno e di incoraggiamento. Il nunzio appoggia anche i movimenti cattolici che si sono sviluppati e moltiplicati in quegli anni. Però è attento anche che non esagerino, che qualche volta possono non conservare la misura e quindi per essere poi negativi, li freni senza apparire troppo sordino, certa diplomazia. Non è tanto la sfiducia nel laicato che provoca questa avvertimenti alla prudenza, ma alcune intemperanze dovute che appaiono qua e là in qualche movimento, in una delle tante associazioni cattoliche che erano sorte in quegli anni. E le istruzioni ricordano anche, poi passano in rassegna stato per stato, non sono tutt'altro che generiche, Prussia, Baviera, Württemberg, Baden, eccetera, eccetera, con le differenze che ci sono, preferiscono tracciare i principi, lasciando poi le applicazioni concrete ai vescovi, mostrando una certa finezza diplomatica da parte della Santa Sede. E ricordano in particolare la questione del giuramento alla Costituzione, che aveva provocato un caso di coscienza da parte dei vescovi che si erano rivolti a Roma, e Roma aveva detto, insomma, quando è chiaro che questo giuramento non si estende alle leggi contrarie alla Chiesa, si può fare, facciano il vescovo, faccia una pastorale, dichiari il significato di questo giuramento e i cattolici, i fedeli o laici lo prestino tranquillamente. Ma i vescovi, Melkers soprattutto di Colonia, dice una pastorale di questo genere, pericolosissimo, provochiamo l'ira di Dio da parte del governo. E allora la Santa Sede dice, beh, va bene, non si faccia una pastorale, ma si dica, si faccia sapere ai vescovi, ai fedeli, nel modo migliore, sottovoce, in sottordine, così, vero, qual è il significato di questo giuramento, e poi prestatelo tranquillamente. È un po', l'amico Vandruska sorride, capisco le ragioni in pieno, ci comprendiamo molto bene, ma è un po' l'atteggiamento classico della Santa Sede, salvare i principi e poi nelle applicazioni un pochettino cedere, vabbè, questo. E vorrei soltanto concludere questo punto, che naturalmente potrebbe essere oggetto di un'ora di esposizione, soltanto con la frase finale che mi sembra riassumere un po' lo stato d'animo di Roma su questo punto. Il non di meno, benché la Chiesa non si trovi in uno stato di persecuzione flagrante, va bene, la Santa, il nunzio vigili bene, va bene, e dunque, da tutto ciò che precede, Monsignor Nunzio rileverà facilmente che se da un lato i governi della Germania sono più o meno tutti ostili alla Chiesa, dall'altra parte la Santa Sede non può che rallegrarsi della condotta in genere del clero superiore ed inferiore tedesco, nonché dei sentimenti da cui ovunque mostrasi animato codesto popolo fedele. E le istruzioni al nunzio riflettono i sentimenti che appaiono nelle lettere di larga parte dei vescovi tedeschi a Roma, conservate nel fondo delle epistole al Principes, dove alcuni vescovi, qualche volta con un linguaggio di stile intransigente, parlano della persecuzione diabolica scatenata, ma anche del fervore che si è ravvivato in tante diocesi e che appare qua e là, con manifestazioni di devozione tipicamente ultramontane, penso soprattutto a consacrazione al Sacro Cuore, ma anche a frequenza ai sacramenti, che è un fatto importante, perché tipicamente religioso. La brevità del tempo mi costringe ad andare avanti. Ci sono nelle archivi vaticani le lettere all'imperatore e al re di Baviera, e c'è una lettera che mi sembra che non sia stata pubblicata. Naturalmente queste gli storici dicono, mi sembra che non sia stata pubblicata, poi magari si trova pubblicata da qualche parte quando meno se l'aspetta. La lettera più famosa che è stata pubblicata fin da allora è quella dell'agosto del 73 all'imperatore Guglielmo I, in cui Pio IX si mostra per quello che è, cioè un uomo privo di senso politico, perché ricorda l'imperatore che, come battezzato, è sotto la sua giurisdizione. Un'affermazione teologicamente discutibile, che ha subito una certa evoluzione anche dal punto di vista teologico, ma che comunque sì, era proprio una gaffe assoluta in quel momento, una mancanza di senso diplomatico proprio colossale. Io non capisco come consiglieri, che l'avrà anche preparata forse qualcun altro questa lettera, come l'abbiano spedita. E difatti poi Guglielmo I risponde che si, di fronte a Dio, lui non conosce nessun altro mediatore che Gesù Cristo. Dio, Gesù Cristo e Guglielmo I, e basta. E allora polemiche divertentissime sulla civiltà cattolica, eccetera. Ma questa lettera a Guglielmo I mi ricorda anche un'altra lettera a Francesco Giuseppe di 12 anni prima, in cui anche lì io domando e dico: i consiglieri di Pio IX avevano un po' di senso politico in questo caso? Pio IX, a proposito dell'uguaglianza di culti che Francesco Giuseppe stava concedendo all'Austria, ricorda i principi fondamentali, dice: beh, poi su questo vado a consultare la seconda articolo tale, questo 74, c'è la somma di San Tommaso. E io immagino con quanto zelo e con quanta premura Francesco Giuseppe si sarà fatto arrivare la seconda e avrà spogliato, che poi oltretutto poi quella citazione non è nemmeno esatta, almeno avesse indicato la questio precisa, ma esatto non esatto era del tutto inopportuno. E questa lettera di Guglielmo I era un capolavoro di ingenuità politica, ma non è l'unica lettera, ce ne sono anche precedenti in cui l'imperatore si mostra scontento dell'atteggiamento di alcuni gruppi del clero, che avevano i loro motivi, insomma si vede già che c'è un certo dissenso che si sta aggravando. E le lettere all'imperatore, al re di Baviera, credo che non siano state tutte pubblicate, ma il re di Baviera se la cava in modo molto diplomatico, dice: qui per capire, per rispondere bisognerebbe esporre tutta la situazione giuridica e politica della Baviera, e questa è una lettera impossibile, e in ogni caso io non posso fare quello che voglio perché dipende dai miei ministri, cioè in termini politici, giuridici, tecnici, si appiglia alla natura del re costituzionale che regna ma non governa. Credo che Pio IX non abbia mai capito questa situazione. Per lui il re era re, dipendeva da questo, con Vittorio Emanuele II e con altri. Qui potrei leggere alcune lettere che sono inedite, ma devo rispettare i tempi stabiliti. E accanto a questo ci sono le lettere dei vescovi. No, prima di tutto, lettere a chi? Lettere, ci sono due lettere che sono due trattati, si potrebbe dire piccoli trattati di teologia, fanno parte di una delle posiziones, e sono qui, almeno hanno oltretutto hanno il vantaggio di essere stampate, e quindi a rigori si possono anche pubblicare facendo semplicemente la fotocopia e inviando tutto in tipografia, si può, è talmente chiara la stampa. Dunque c'è la lettera del ministro dei culti bavaresi De Lutz, al vescovo di Monaco Scher del 27 agosto 1871, 19 pagine stampate, e poi la lettera della risposta dello Scher a Lutz del 26 settembre 1871, anch'essa abbastanza lunga, altre 9 pagine, e sono piccoli trattati di teologia, perché il Lutz sostiene che, come avevano sostenuto in genere i ministri svizzeri e anche austriaci, è il leitmotiv della polemica, che il dogma dell'infallibilità aveva cambiato la natura dei rapporti tra Stato e Chiesa. Vi leggo soltanto alcune di queste, alcune frasi che mi sembrano fondamentali. Per quanto riguarda dunque il sottoscritto, il governo non può chiudere, il governo sostiene che il dogma della personale infallibilità del Papa contiene senza alcun dubbio un cambiamento fondamentale nell'idea dottrinale della Chiesa Cattolica. E allora non può evitarsi la domanda: come può stabilirsi in base alla nuova dottrina di fede la relazione tra Stato e Chiesa? Fessler, l'ex segretario del Vaticano I, nel suo libro approvato da Pio IX esplicitamente, della vera e della falsa infallibilità, cercherà di rispondere con molta chiarezza e solidità a questa questione, e più volte Pio IX ci ritorna. E la stessa questione che poi ritorna nella lettera del Lutz, in altre parti, l'infallibilità già attribuita a tutta la quanta la Chiesa conteneva un pericolo per gli Stati. E gli è non di meno evidente che l'infallibilità fin qui attribuita a tutta quanta la Chiesa è un istituto molto meno mobile e facile ad essere abusato, cioè molto meno soggetto ad abusi, che non sia quell'infallibilità la quale è stata nuovamente introdotta e che è esercitata solamente dal capo supremo della Chiesa. In un concilio i vescovi possono frenare decisioni intempestive, il Papa da solo può invece prenderle con maggiore facilità. L'intenzione di invadere al bisogno la sfera civile non solamente è stata provata, ma ha realmente avuto seguito. Scher risponde, e mi sembra in modo abbastanza chiaro, ma non riesce certamente a persuadere il suo interlocutore. E qui si apre anche un altro problema. In genere nei manuali che ho letto si afferma che in Baviera il ministro Lutz era favorevole a una maggiore distensione dei rapporti tra Chiesa e Stato, qui ero abbastanza vicino alla Chiesa. Il quadro del Vaticano è invece piuttosto diverso. Non so quale dei due quadri si avvicini più alla realtà. Cioè, questo Lutz era conciliante e si distaccava da Bismarck nella misura del possibile, o invece accettava le direttive del Bismarck e era ostile alla Chiesa? Io lascio il problema aperto, è uno dei problemi che emergono dall'archivio vaticano. Tante volte si può domandare, ma il Vaticano ha capito la situazione, i giudizi di questi documenti sono obiettivi o no? Lo ha letto con spirito critico e va approfondito. Evidentemente un documento d'archivio non è mai sufficiente per risolvere una questione. Ci sarebbe da ricordare invece le lettere dell'Episcopato tedesco al Papa. Qui non so quante di queste lettere siano già pubblicate, in parte dal Katz, in parte dal Katrain, o Siegfried, quel vecchio opuscolo che è utile ancora adesso come raccolta di tanti documenti, anche se non riporta mai le citazioni, le fonti, se i criteri di edizione di oggi sono un po' diversi da quelli del secolo scorso, ma quelli. In ogni modo credo che parte di queste lettere siano inedite e esprimono l'ansia dell'Episcopato e il bisogno di appoggio e di sostegno da parte di Roma. E come ho detto anche nel breve sunto che avete sotto gli occhi, si vede che uno degli effetti del Kulturkampf è di avere consolidato l'unione tra l'Episcopato germanico e Roma, quell'unione che era un po' apparsa in crisi durante il Vaticano I, quando la stragrande maggioranza dell'Episcopato tedesco si mostrò contraria per motivi largamente di opportunità, con qualche anche dubbio teologico su cui adesso non mi fermo. Ora invece si stringe al Papa perché pensa che soltanto una maggiore coesione con Roma gli darà la forza di resistere. E ho ricordato anche nelle pagine che avete che si realizzava alla lettera la previsione che aveva fatto già nel 1848 Monsignor Corpoli Bussi, uno dei consiglieri di Pio IX più intelligenti, più aperti, più concilianti, che è morto però nel 1850 una trentina d'anni, aveva una formidabile capacità di lavoro, una calligrafia nitidissima, probabilmente stendeva queste lettere di getto, 30 pagine con una sintesi chiara, completa, e il Corpoli Bussi diceva, sembra che ben più di un secolo sia passato da Koblenz, da Ems, da quando cioè l'Episcopato tedesco era un po' simpatizzante con Febronio, e voleva, si appoggiava un po', pensava di potersi appoggiare a Giuseppe II per rivendicare una certa autonomia da Roma, tutto questo è scomparso. E vedremo che, diceva Corbuli Bussi, che la conferenza di Würzburg del 48 è semplicemente il primo atto di un processo che si andrà approfondendo. E non tanto al Vaticano I, ma negli anni del Kulturkampf, questa previsione di Corbuli Bussi trova una piena conferma. E ripeto, non è Roma che dice obbedite, è l'Episcopato tedesco che dice aiutateci, perché soltanto se stiamo uniti qui ce la facciamo. È un po' la ricerca di un sostegno per resistere. E Roma anche dà le sue direttive, ma soprattutto dice coraggio, siamo insieme, ce la faremo. E tra le lettere che mi hanno più colpito ci sono quelle di Ledochowski e quelle di Martin. Però direi che bisogna ricordare anche le lettere di Scher e di Melkers, di persone che al Vaticano prima facevano parte dell'opposizione, ma dopo 2 o 3 anni si stringono al Papa. E qui c'ho tutte queste fotocopie, le lettere di Ledochowski, ve ne leggo una parte soltanto, una lettera del 73, in cui i vescovi tedeschi, Ledochowski ricorda l'unità che regnava tra i vescovi tedeschi, perfetta uniformità dei principi, perfetta identità dei mezzi di difesa, diversa soltanto nelle circostanze. E qui lei torna con Ledochowski la questione della lingua. Alle angustie generali si aggiunge l'istruzione religiosa della gioventù cattolica negli istituti di educazione superiore. Essa si dava fino ad ora ai polacchi in lingua polacca, da preti a tale uopo da me designati. Ultimamente il governo ordinò che da Pasqua in poi l'insegnamento della religione si facesse nella lingua nella quale gli altri oggetti di istruzione si insegnavano, cioè quasi dappertutto in tedesco. Ora, siccome i giovani che frequentano le classi inferiori non conoscono di tedesco quasi niente, quei poi che arrivano alle classi intermedie, sebbene già lo capiscano, non lo conoscono però ancora sufficientemente, e tutti poi hanno per esso una grandissima avversione, io non potevo permettere che l'insegnamento della religione si facesse in un modo incomprensibile affatto, cioè del tutto, o meno comprensibile alla gioventù, molto più che circa 12.000 padri e madri di famiglia mi pregavano di non acconsentirvi già mai. E Pio IX approva la difesa della lingua polacca, che del resto era sostenuta anche nella Polonia soggetta alla Russia in varie parti. È la stessa lotta che si svolge in difesa della lingua polacca che si svolge nella Polonia soggetta alla Prussia e nella Polonia soggetta alla Russia negli ultimi anni del pontificato di Pio IX. E qui bisogna dire che Ledochowski scriveva in italiano perfettamente, i polacchi hanno questa facilità di lingua, vabbè. E poi c'è la lettera di Ledochowski con cui lui annuncia che sta per essere arrestato. Ieri sera ho ricevuto l'annunzio di comparire di fronte ai giudici, e qui è molto bello questo abbandono al Papa. Insomma, oramai ci ho preso le disposizioni in visione dell'arresto, dati i poteri di giurisdizione, succederà quello che succederà, ho compiuto il mio dovere, avvenga quello che deve avvenire, sono a posto con la mia coscienza. E abbiamo sotto gli occhi la lettera di Martin in cui ricorda la sua situazione. Vorrei ricordare ancora due relazioni bellissime che avrei voluto leggervi sulla diocesi di Treviri e di Ratisbona, fatta dal vicario generale del defunto vescovo di Treviri e dal canonico e dal suffragano, un altro prelato. E qui è un quadro doloroso, diciamo serio, vogliamo giudizi di valore. Descriviamo la situazione. Circa 25 parroci sono stati interdetti dal loro ufficio e sono in parte in carcere, in parte in esilio. 100 parroci sono morti e quindi 200 parrocchie vacanti e 100.000 fedeli senza cura pastorale. Vorrei ancora, è più o meno lo stesso della diocesi di Ratisbona, E vorrei ricordare infine la questione di Hohenlohe. Qui abbiamo tutto un carteggio, nella una manovra di Bismarck, un gioco con cui voleva mettere il Papa in imbarazzo senza poi riuscirci. E nel carteggio della Segreteria di Stato c'è proprio la traduzione italiana del discorso di uno dei discorsi di Bismarck a proposito di Hohenlohe, che aveva nominato, aveva proposto come ambasciatore della Prussia presso la Santa Sede, sapendo che sarebbe stato rifiutato. Non era scemo Bismarck. È interessante vedere questo discorso del principe Bismarck nei carteggi della Nunziatura. Ma vorrei soprattutto ricordare due atteggiamenti analoghi, il Kettler, che sostiene l'indipendenza del centro tedesco di fronte ad alcune affermazioni che sembrerebbero provenienti da Roma, e si appella ad una lettera dell'Antonelli che ha confermato, che ha chiarito le dichiarazioni fatte e riconosce l'indipendenza del centro tedesco. Questa lettera è affermata dal Kettler, ma io non sono riuscito a trovarla e credo che nessuno riuscirà a trovarla. Negli archivi tante cose si trovano e tante cose non si trovano. E poi l'altra cosa analoga è, dunque, Franzelin viene a sapere, dunque siamo nel 1876-77, insomma, che un giornale tedesco, che è qui riportato dall'Archivio Vaticano, come vedete fonte, una larga fonte di informazioni, del 6 agosto 1876, che a Münster i cattolici avevano proclamato un loro programma in cui chiedevano la libertà per tutti, quindi la libertà per i protestanti, i luterani e per i cattolici. E allora Franzelin, come? Noi possiamo accettare una situazione di fatto, che anche i luterani abbiano la loro libertà, ma non possiamo rivendicarla e inserirla nel nostro programma. E allora trasmette questo episodio alla Segreteria di Stato e dice: qui il Papa dovrebbe chiarire le cose, e il consiglio del Franzelin viene senz'altro, qui c'è una lettera del Franzelin del 4 settembre 1876, e viene mandato una lettera a tre vescovi tedeschi, ricordando che questo a Melkers, a Martin e al Brinkmans, cioè a Treveri, cioè a Paderborn, a Colonia e a Münster, per ricordare che i cattolici non possono inserire nei loro programmi la libertà di religione per tutti, cattolici o non cattolici. Ecco alcune, e questo è, come ho anche scritto in quelle pagine che avete sotto gli occhi, conforme all'atteggiamento di quegli anni, alla lunga battaglia condotta dalla Santa Sede in Spagna contro l'articolo 11 della Costituzione del 1876, che si apriva ad una moderata tolleranza. Una lunga battaglia che fu del tutto sterile, perché si concluse poi con l'andiamo dritto del governo spagnolo. Ma questa era la mentalità di quell'epoca, non del Montalembert, ma la mentalità del Bilio e la mentalità di Pio IX. Avrei potuto dire tante altre cose, non so se sono stato disordinato, ma ho cercato di sottolineare alcuni punti fondamentali. Quello che mi ha più, una delle cose che mi hanno colpito, è la forte unità tra episcopato tedesco e curia romana. E vorrei anche ricordare una cosa, che non sono del tutto d'accordo con quello che ho letto nel volume della parte ricordata del professor Lill, mi pare, se non erro, in cui dice che in fondo negli ultimi anni di Pio IX la curia romana non ha fatto altro che moltiplicare le sue proteste, ma la sua azione è stata piuttosto sterile. Io direi che non è stata così sterile come potrebbe sembrare a prima vista, perché ha sostenuto questa resistenza compatta dell'episcopato tedesco, che Bismarck probabilmente, voi mi potete correggere, non aspettava, e che ha preparato quindi poi tutta la lenta ritirata operata da sotto Leone XIII. E in questo senso anche non c'è una frattura, ma c'è una continuità tra la prima e la seconda fase del Kulturkampf. Ma io mi rimetto in questo al vostro parere. Grazie Padre Martino per questa relazione, che è così ricca soprattutto di documentazione. oltre che di spunti che evidentemente anche sollecitano delle risposte da parte dei colleghi e degli studiosi tedeschi. Chiederei ora al professor Lill un piccolo piano di lavoro, facciamo una mezz'ora di discussione, poi 10 minuti di intervallo. Ecco, allora d'accordo con il professor Lill, penseremo di introdurre ora una discussione non troppo lunga, da mantenersi tra interventi e risposte e traduzioni che i nostri cari amici sono disponibili a darci entro, direi, una mezz'ora, 40 minuti al massimo, di fare poi un intervallo piuttosto breve in modo che per le 11 al più tardi possa iniziare la seconda relazione. Do la parola a chi la chiede, chiedo scusa, devo mettermi anche gli occhiali. Allora, chiesto la parola il professor Vandruska, professor Lill, e incominciamo a sentire, ci sono altri che... allora, prego professor Vandruska, non so se si vuol far dare uno di quei paletti, oggi funzionano. Einige Ausdrücke, die Freund Martina hier gebraucht hat, sind den Deutschen wahrscheinlich nicht verständlich. Zum Beispiel der Episcopo Varniensis, das ist der Bischof von Ermland. Das ist ein Einsprengsel, ein katholisches Einsprengsel in Ostpreußen gewesen. Das ist ein Territorium, ein geistliches Territorium, das nicht die Reformation, die Hohenzollern ja im Ordensland durchgeführt haben, der letzte Großmeister, Albrecht von Brandenburg, das nicht mitgemacht hat. Also hier in Ostpreußen, das ist den heutigen Jungen, da ja das Ostpreußen überhaupt jetzt zu, das Ermland gehört ja jetzt zur Sowjetunion, glaube ich, ja. Ja, doch, Polen, ja, es ist aber gerade an der Grenze zwischen Polen und Sowjetunion, das ist den Jüngeren wahrscheinlich gar nicht bekannt. Das zweite ist der Ausdruck Vecchi Cattolici, das sind die Altkatholiken. Das ist ja das, worauf Bismarck die große Hoffnung gesetzt hat, oder bitte, darüber können wir noch diskutieren, aber viele, die große Hoffnung gesetzt haben, die enttäuscht worden ist, weil die Altkatholiken eben nicht diesen Erfolg gehabt haben, den manche erwartet haben. Und da kommen wir gerade auch hier zu Trient, ein klassischer Fall, der Abate Aprato, ein liberaler Katholik in Segonzano, der mit Döllinger Kontakt hatte und der eben auch ein Sympathisant des Altkatholizismus gewesen ist. Und da nur eine Sache, die dazugehört, das Problem der Archive, in Segonzano hat dann eine Angehörige der Familie Aprato, die sehr fromm war, hat alle diese Dinge, die ihren Verwandten den Geruch des Altkatholizismus oder der Sympathien für den Altkatholizismus gehört haben oder geführt haben könnten, hat sie vernichtet. Um also ihre Familie von dieser Schande oder von diesem Geruch des Altkatholizismus zu befreien, und die Nicoletta Cavaletti in ihrem Buch über den Abate Aprato bedauert das, und sie hat es mir gesagt, ich habe da ein Vorwort zu diesem Buch geschrieben, dass einfach irgendeine fromme Tante dieses Archiv, alles das, was Beziehungen zwischen Trient, also Segonzano in diesem Fall, und Döllinger gebracht hat und den Altkatholiken, ist einfach vernichtet worden. Grazie, volete dire. professor Vandruska aggiungeva più che altro alcuni chiarimenti, alcune appendici alla relazione del professor Martina, chiariva specialmente per i più giovani, forse di lingua tedesca, diceva che alcuni dei passi citati si riferiscono a situazioni particolari che poi sono mutate nel tempo anche nei nomi, si riferiva in particolare alla diaspora cattolica nella Prussia dell'Est, oggi Polonia, e poi alla questione dei vecchi cattolici, Altkatholiken appunto, in tedesco, con tutte le speranze e poi le delusioni innescate da questo movimento, e riferiva l'esistenza di archivi della famiglia A. Prato qui in zona che erano appunto in contatto con gli ambienti del Döllinger. Ich möchte einige kurze Bemerkungen machen, faccio due o tre osservazioni rispondendo anche all'ultima frase di Padre Martina. Nach meiner Kenntnis der Quellen war Pius IX in jenen Jahren nicht nur politisch, sondern kulturell, geistig völlig isoliert. Das war die Folge teils der liberalen Angriffe und teils der eigenen ultramontanen Verfestigung. Und deswegen waren er und seine Mitarbeiter kaum imstande politisch zu wirken. Allora io sono convinto che Pio IX in quegli anni era del tutto isolato, non solo politicamente, ma soprattutto spiritualmente e culturalmente, e che perciò né lui né i suoi collaboratori erano capaci ad agire politicamente, ma sapevano solo a reagire e a protestare. Der Papst hat sich, glaube ich, damals nach diesem Unfehlbarkeitsdogma und der Angriffe von allen Seiten in so eine Art Endzeitstimmung hineingesteigert. Si nota un certo sentimento apocalittico. Si aspetta il giudizio del Signore su questi nemici della verità e di Dio, eccetera. Von daher auch die konkrete Unfähigkeit zur Beurteilung vieler deutscher Situationen. A mio avviso questi nunzi non sapevano giudicare esattamente la molto complicata situazione nei diversi stati tedeschi e non hanno mai del tutto né capito né accettato la realtà politica dei partiti cattolici. Wenn Sie Franzelin erwähnen mit der Ablehnung der Freiheit für alle, so ist das ganz typisch, dass ausgerechnet dieser fromme, theologisch hochgebildete Tiroler Jesuit Franzelin, der absolut nichts von Politik verstand, dass der eben nun auch für politische Fragen herangezogen wurde. Franzelin, a mio avviso un caso esemplare, uomo pio, zelante di dottrine neoscolastiche, ma che non si intendeva di politica, ma lui non poteva ammettere il principio della libertà di tutti i gruppi religiosi, cioè insomma loro non capivano mai la politica del partito del centro e di tutti gli altri partiti. A mio avviso questi incoraggiamenti della Santa Sede erano ben intenzionati, ma invece sprache die zwar alte, aber für alle älteren Abteilungen der Vatikanischen Archive sehr gute Einführung von Karl August Finck gibt und dass unser verstorbener Freund Hermann Diener sehr viele Einzelfonds des Vatikanischen Archivs erarbeitet, erschlossen und auch vorgestellt hat. Das gilt zwar weniger fürs 19. Jahrhundert, aber wenn Sie diese Aufsätze von Diener lesen, dann kommen Sie an die Struktur des Archivs insgesamt heran und die hat er gerade in den letzten Jahren seines Lebens in verschiedensten Aufsätzen vorgetragen, cioè quei saggi del compianto amico e collega Hermann Diener su alcuni fondi dell'Archivio Vaticano, anche se non toccano direttamente l'Ottocento, spiegano in gran parte la storia e la struttura dei tanti archivi che sono confluiti nell'Archivio Vaticano. E per quanto riguarda lo studio concreto di questa di questo Kulturkampf, io ho avuto l'impressione, quando io ho fatto quella edizione negli anni seguenti, che molto spesso bisogna anche ricorrere agli archivi tedeschi, agli archivi statali, diocesani. Das Vatikanische Archiv ist hochwichtig und enthält eine komplette Überlieferung, aber es kommt sehr oft vor, dass Briefe, auch von Königen und Kaisern, erst recht von Bischöfen, eben auch in lokalen Überlieferungen, in Diözesanarchiven, in Staatsarchiven erhalten sind. Das Bayerische Geheime Hausarchiv wegen der ganzen Korrespondenz der Wittelsbacher, Haushoch- und Staatsarchiv und vieles andere. Und es gibt ja im späten 19. Jahrhundert diese Life and Letters Biografien, auch noch im frühen 20. Jahrhundert. Und alleine in der sehr parteilichen Biografie von Förster über Adalbert Falk sind etliche dieser Briefe mit abgedruckt, denn die Papstbriefe waren natürlich in Berlin ja auch archiviert. Und wer Zugang zu den Berliner Archiven hatte, der konnte sie auch publizieren. Also zur Methode müsste man dann also immer auch die deutsche und die Diözesane, Herr Weber ist ja ein eminenter Kenner zum Beispiel des Trier Diözesanarchivs, also es gibt da viele Überlieferungen. Entschuldigung, ich habe zu lange gesprochen. Grazie professor Lille, che ha anche tradotto se stesso, mi pare quindi inutile altri interventi di traduzione. Chiedo se vi sono colleghi. Prego. A lei. Sie haben von Istruzioni gesprochen. An die Nunzien werden diese Istruzioni gegeben. Frage: Was sind das Istruzioni? Sie sagen, sie sind Ihnen nicht bekannt. Ich glaube, einige entdeckt zu haben, allerdings nicht in dem Archivio per gli Affari Ecclesiastici Straordinari, sondern im Nunziaturarchiv. Oder habe ich da was anderes gesehen? Bozzo è sopra e poi il testo mandato via è rimasto all'archivio dell'Annunziatura. Altre Dann domande? Habe ich noch eine zweite Frage. Inwiefern sind die Dokumente vollständig? Inwieweit ist bei der Präsentation eines Archives hier auch etwas weggekommen? Also gerade bei dem Archiv della Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari, das ist so schön präsentiert, dass sich die Frage für mich erhebt, ob es nicht zu gut präsentiert ist. No, adesso è abbastanza facile l'accesso, senza troppe presentazioni. La difficoltà è tecnica, se ho capito bene la sua domanda. È tecnica che ti fa il povero archivista e dice, insomma, ti porterà pochi documenti per volta e quindi una consultazione un po' lenta e le ore sono limitate. Meine Frage ging dahin, ob bei der Präsentation des Archivs nicht einige Dokumente auch beseitigt wurden. Non credo. Denn es fehlen einige Dokumente in den anderen Archiven, die dann in diesem Archiv vorhanden sind, aber umgekehrt, gewisse Bausteine, die ich in deutschen Archiven gefunden habe, sind im Vatikanischen Archiv in verschiedenen Fonds nicht vorhanden, obwohl sie sehr wichtig wären. Questo si trova un po', non credo che sia esclusivo dell'archivio vaticano, perché tante cose non si trovano, dove sono andate a finire? Ho cercato tante cose proprio negli ultimi anni e non so perché sono andate a finire. E poi io stando sopra perché tutta la polemica sotto la morte di Vittorio Emanuele II, tutta la reazione della stampa cattolica, in parte sta sotto, in parte sta sopra, lo stesso argomento, ma non credo che abbiano eliminato alcuni documenti, non credo. Ich hätte noch einen dritten Teil der Frage, das Archivio Particolare di Pio IX. Welche Bedeutung hat dieses? È importante. Ci sono molte cose inutili e molte cose molto importanti. Per esempio, l'autografo della locuzione del 29 aprile 1848, da lì, dal fondo Pio IX, e così altre bozze. Interessante, bisognerebbe però dare un'occhiata più approfondita di quanto abbia potuto fare io in questi giorni. E presso la Biblioteca Comunale di Trento è stato recuperato l'archivio di uno storico trentino, il giurista, il professor Francesco Menestrina, che durante gli ultimi, fino a che è morto nel 1910, di Monsignor De Montel, e prima della morte aveva avuto ripetuti contatti e colloqui anche confidenziali con Monsignor Giovanni De Montel, che nella storiografia è dato come uno che ha avuto un ruolo, io non conosco fino a che punto sia corrispondente e quanto larga sia, sia stata la sua influenza, un ruolo confidenziale di tramite tra il mondo prussiano e la Santa Sede. Monsignor Giovanni De Montel, diceva il Menestrina, in una lettera in cui si proponeva, una volta che fosse uscito dal suo ufficio di vice avvocato generale dello Stato, diceva di voler, avvalendosi degli appunti che aveva messo in carta dopo ogni colloquio con Monsignor De Montel, di scrivere una vita su Monsignor De Montel, e si lamentava che purtroppo la guerra avesse disperso il suo archivio e sperava che qualche cosa fosse rimasta ancora nelle carte giacenti presso la famiglia. E io l'avevo cercata da molti anni fa, e prima ancora della morte della figlia, e pensavo che fosse andato tutto distrutto, mentre invece quando questo archivio del professor Francesco Menestrina è stato recuperato dopo la morte della figlia recentemente, e ad una ispezione, ad un ordinamento, si sono trovati un carteggio che io stesso ho visto recentemente, credo di un 400 lettere ricevute da Monsignor De Montel, una, non sono riuscito però a trovarla, anche di Bismarck, altre di tutto di molti cardinali, arcivescovi, sia gli italiani che dell'impero austro-ungarico che della Germania, e ho l'impressione che questo possa essere un materiale interessante appunto per il ruolo che ha avuto Monsignor De Montel. In qualche accenno che ho trovato così rapidamente si parla di un ruolo riservato, quasi una missione confidenziale che avrebbe avuto, ne parla anche Udal nel suo ruolo. Ecco, e qui bisognerebbe avere la pazienza di esplorare questo grosso fondo, e tra il resto il professor Francesco Menestrina ha lasciato anche una notizia di come si è riuscito a recuperare tutto questo carteggio, che nel 1929, il professor Francesco Menestrina è morto quando nel 64, mi pare 65, nel 1929 aveva dato come disperso, poi dopo invece è riuscito. C'è tutto questo enorme carteggio di Monsignor Giovanni De Montel. Ho voluto dare la notizia perché mi pareva che proprio in relazione al tema della lezione del professor Martina fosse interessante. Funziona? Es gibt ein im Stadtarchiv von Trient gibt es weiteres Umfang. Weiteres umfangreiches Material gesammelt von Professor Francesco Menestrina, der in Kontakt stand mit Monsignore De Monte, eine Vermittlerfunktion gehabt haben mag, soweit aus den schon bisher bekannt, zwischen Preußen und dem Heiligen Stuhl. Ministrina hatte den Plan gefasst, eine Biografie zu schreiben, hatte zunächst aber Teile des Archivs für verloren gehalten, die aber nun wiedergefunden sind und also noch eine bedeutende Materialsammlung enthalten. Ja, ich glaube, ich kann ein Beispiel bringen, wo Dokumente aus dem Vatikan gelandet sind im letzten Jahrhundert, und zwar Dokumente aus dem Archiv des Heiligen Offiziums. In Gars am Inn, im Redemptoristenarchiv, gibt es einen Akt, der sich befasst mit der Anklage gegen Bischof Seiler, der also der indiziert werden sollte. Und da finden sich eine Reihe Dokumente, die zum Teil von Reisach nach Gars oder irgendwie an die Redemptoristen, an Pater Bauron, Moreau, den General, weitergegeben worden sind. Es sind meines Erachtens auch Originaldokumente darunter. Un esempio di dove possono essere finiti taluni documenti vaticani, ad esempio nell'archivio dei Redentoristi, a Roma ritengo. Sì, ci sono documenti soprattutto di provenienza del Santo Uffizio, ad esempio sul vescovo Seiler, che era allora indiziato, e altri per giunta documenti originali. No, ma sapete, si trovano un po' quella. Io confesso, ho ricopiato, mi sono trovato su un parere del Santo Ufficio sul Confortatorio di Mantova, scritto da Monsignor Martini. Me lo sono ricopiato con grande entusiasmo, era nell'archivio di Pio IX. E il giorno dopo, preso alla Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea a Roma, Luzio, Profili e Bozzetti e Bozzetti Storici, era stampato tutto quello che gli aveva copiato a mano. Però perché? Probabilmente alla morte, questo parere è andato a finire da qualche cardinale, e alla morte di qualche cardinale, qualche parente se l'ha preso e poi l'avrà regalato, l'avrà venduto a Luzio, e Luzio. Una piccola osservazione sul problema dell'insegnamento religioso. È abbastanza interessante, ha sottolineato padre Martina, questa difesa al diritto dei polacchi, dei bambini polacchi, all'istruzione nella propria lingua materna. E quello che è interessante però è che si tratta di un atteggiamento anche molto pragmatico, cioè non viene in assoluto difeso il diritto all'istruzione nella lingua materna, neppure per quanto riguarda solo l'insegnamento religioso, mi pare di capire, ma si dice semplicemente, si parla del diritto dei bambini a ricevere l'insegnamento in una lingua che capiscono, e quindi siccome parlano poco il tedesco, è bene che l'insegnamento sia impartito più che nella lingua materna, nella lingua che capiscono. E vorrei anche aggiungere un'altra cosa. Si tratta naturalmente di un problema che si ripresenta soprattutto dopo, anche in Italia. È un problema che ha un ruolo invece ancora estremamente modesto nel corso degli anni 70. E l'interlocutore successivo sarà poi per la Chiesa un interlocutore ben più duro dello Stato liberale, cioè lo Stato fascista sia prima che dopo il concordato. Intorno agli anni 70 i problemi di minoranza in Italia sono naturalmente ancora molto limitati. Per quanto riguarda la Valle d'Aosta esiste un diritto riconosciuto all'insegnamento, in questo caso non solo religioso ma anche normale, diciamo, all'insegnamento nella propria lingua materna. L'altro piccolo caso è quello degli slavi del Natisone, che diventano degli sloveni del Natisone, che diventano proprio in questi anni cittadini italiani, per i quali è abolita qualsiasi forma di insegnamento nella lingua materna nella scuola, è riconosciuto il diritto all'istruzione religiosa in sloveno, che però avviene non all'interno della scuola ma invece all'interno della parrocchia. Ich kann mich vielleicht ganz kurz selbst übersetzen. Es handelt sich nur um eine kleine Bemerkung über die Frage des Religionunterrichtes und vor allem die Sprachenfrage im Religionunterricht. Es gibt keine so vatikanischer Seite keine Anerkennung auf ein allgemeines Recht auf einen Unterricht in der Muttersprache, sondern es handelt sich mehr um eine sozusagen pragmatische Frage, und zwar in den Berichten Antinunzen wird es behauptet, dass die polnischen Kinder noch eine zu schwache Kenntnis der deutschen Sprache haben und deswegen sie ein Recht haben auf einen Religionsunterricht in der einzigen Sprache, die Kinder gut kennen. Die Frage spielt auch eine große Rolle in der späteren italienischen Geschichte und vor allem im Laufe der 20er und 30er Jahre, und zwar eine echte Nationalitätenfrage oder Minderheitsfrage entsteht in Italien erst nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Der damalige Gesprächspartner der katholischen Kirche wird nicht mehr der liberale Staat, sondern der faschistische Staat, und trotz des Konkordates, vor und nach dem Konkordat, wird der faschistische Zeit eine harte Stelle in diesen Fragen der Kirchen gegenüber annehmen. Im Laufe der 70er Jahre spielt die Frage eine bescheidene Rolle in der italienischen Geschichte. Es gibt nur zwei relativ bedeutende Minderheiten, was die Franzosen im Ostertal betrifft. Sie haben auch ein Recht auf den Unterricht in der Muttersprache, nicht nur im religiösen Bereich sozusagen, auch in der Schule. Und die anderen Minderheiten sind die Slowenen, die im Natisonental wohnen, die gerade in diesen Jahren italienische Staatsbürger geworden sind. Die haben ein Recht auf den religiösen Unterricht in der Muttersprache, aber nur außerhalb der Schule, und zwar in der Pfarrkirche. Penso che possiamo dare restituire la parola a Padre Martina per una breve risposta. Che pregherei di mantenere, anche perché non mi pare che ci siano problemi. Mi pare che aver già risposto più o meno, sono cose in parte sono cose tecniche su cui siamo d'accordo, perché si può trovare qui, si può trovare lì un documento o sopra o sotto oppure in capo al mondo, sono cose che succedono. Guai a fermarsi su un archivio credendo di aver visto tutto, anche su un fondo solo di un archivio. Un archivista deve un po' sapere spaziare, anche se non si può far tutto, va bene. E per il resto sono d'accordo con il professor Lilli, questo isolamento del Pio Nono gli ultimi anni è certissimo, però anche la resistenza è venuta dall'episcopato tedesco, il quale però si è dire incoraggiato, ecco, questo incoraggiamento è stato utile. Ma questi nunzi come me non capivano. I nunzi qui non è un primo caso, i nunzi come si va avanti, qui il professor Weber potrebbe spiegare come si arriva a diventare nunzio, come sono i criteri con cui sono scelti, è la mentalità un po' dei conformisti che vanno avanti così, insomma, non sempre i nunzi erano all'altezza del loro compito. C'era un nunzio, Carlo Belgrado, che è stato nunzio nei Paesi Bassi verso il 1850, il rappresentante dei Paesi Bassi a Roma lo descrive in un modo durissimo, dice non mi meraviglio come l'abbiano scelto, poi è stato ritirato, no. Però poi c'era qualche nunzio più capace, insomma. Quadro molto vario. E anche è vero, ho qui sotto gli occhi la risposta di Pio IX a Ledokowski a proposito della lingua polacca, e non è che fa questione di principio, dice clarioris glorie tibi erit quod coactus a varietate linguarum popoli tui solus obsistere non dubitaveris mandato peculiari ista de causa aput te infensissimo spirituali culture. Qui pequot precipiens religiosam tradi doctrinam per lingua plerisque puerorum et adolescentium incomperta fundamentum ipsum catholice